È venerdì. Ma perché la capretta venerdì? Cosa? Così. La capretta del venerdì. Cioè? La famosissima capretta del venerdì. Quella, ok. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Marzo, il mese della primavera, eccolo qua. Tu come ti stai preparando a questa nuova stagione? Fischietto. Bravo. L'allegria. Io ho prenotato 2 lavande gastriche a distanza ravvicinata, Drago, sai, così mi sento più sicuro. Hai 2. Fatto bene, perché fatto la lavanda bene. Gastrica è un passaggio essenziale per affrontare al meglio la primavera. Ma non solo, è anche utile per facilitare l'ingestione e la perfetta digestione di Wunderwaffer. Fai come me, prenota 2 lavande gastriche e poi spassatela con Wunderwaffer. Scusa. All'inglese. No. Si arrabbia. Wunderwaffer. La merendina svizzera sponsor di questo programma. Ma no, ma perché hai chiuso così la merendina svizzera? Vabbè, come dovevo chiudere? Non so, così fa schifo, potevi dire con Wunderwaffer. C'è la lavanda gastrica, non fa schifo. Vabbè, dopo la canzone di Arisa a Sanremo, queste cose sono di moda. Sulle ginocchia che tremano e sono perché non si sente bene, sai? E non arresta la corsa, lui non si vuole è lo sbocco che non si vuole. Perché un dolore che sale fa male. Vedi? E allo stomaco, vedi? Fegato, ecco. Vomito, fingo. Jean Dujardin, the artist. Drago! Ci sono. Sei un po' sordo. Un po' sordo, invece ma voglio sento. Parlare dei muti io. Perché all'inizio della settimana l'Oscar è andato a un film muto. Vogliamo parlarne? Ma se siamo muti, come facciamo a parlarne? Vabbè, non ne so niente perché mi sono rifiutato di andare a vederlo. Tu l'hai visto? No. Quindi il discorso può dirsi già chiuso. Scusa, però no, volevo dirti. No, perché il mondo del cinema, al contrario di quello della TV, dei libri, della musica, non si è arreso all'infantilismo dominante. E continua a premiare film sari. Adulti impegnati, ma soprattutto Sari. Può darsi, ma cosa ma? Fratelli italiani a Berlino, hanno vinto. Sì, certo. The Artist agli Oscar, ha vinto. Sì. Nel giro di un paio di settimane hanno vinto tutte cose difficili, serie. Serie, però resta il fatto che al posto di Monicelli adesso in Italia abbiamo Fausto Brizzi. Chi? Niente, lascia perdere. Ma chi? Quello di Jack Frusciante? Magari, quello al confronto sarebbe un fior di intellettuale, un altro Brizzi, però lasciamo stare l'argomento Brizzi. Drago, datti al cinema, è l'unica arte in cui la gente assaria, come te, può trovare piena soddisfazione. Vabbè, poi a me piace andare al cinema, soprattutto perché poi rubo le caramelle. Ma cosa dici? Ma come sono? Sì. Cosa vuol dire rubo le caramelle? Nel multisala bicocca ci sono le scatole piene di caramelle incustodite. E uno può andare lì, rubarne quante ne vuole, poi va al cinema, nessuno gli chiede niente. Ma rubi le caramelle, ma altro che infantilismo. Qui siamo a un livello di regressione indescrivibile. Scusa, costano rubare un patrimonio. Ho capito, ma non. Cioè, loro tra l'altro, hai detto anche che cinema. Quindi adesso poi mi terranno dopo. No, cambieranno il sistema. Speriamo per loro, però non mettono il prezzo, no? Quindi tu sei onesto, prendi tutto quello che vuoi, ti fai vincere dalla Smania, quando vai a pagare sono 15-20 euro di caramelle, ma cioè, voglio dire, sono caramelle. Vabbè, allora non comprarle, scusa, nessuno ti obbliga. No, infatti io le rubo, ne rubo, sono a posto. Ho capito, ma non si rubano le caramelle. Vabbè, io le rubo, e sono anche buone. Dammene una. È un frutto del peccato, quindi. Sì, però. Buono questo gummy Berchin. A me piacciono i gummy Berchin. Sì, gli orsetti, a me piacciono più i sukai. Ti piacciono? Sukai. Sukai. Sukasti. Kappa. E ora, bambini, ricreazione. Ehi, ciao Joris. Allora, hai visto che l'idea che ho avuto l'altra volta, hai visto Sanremo, i successi, è la melodia italiana. Sì. I neomelodici, che quello è il fenomeno, il nostro fenomeno è i bambini che cantano i neomelodici. Tu sei il cantante, quello l'abbiamo già stabilito, io sono il manager e autore di parte dei testi, tu scrivi musiche e melodie e canti, sei il frontman. Vabbè, nessuno mi vede, poi dopo ti racconto. Ho capito, ma che... Ah, hai scritto una canzone tua allora? Ma non io! T'ho appena detto che tu sei, scrivi le melodie, la musica e poi il testo, magari ti aiuto? Allora, visto che mi sembravi entusiasta l'altra volta, sì. Hai scritto qualcosa o no? Ma, sì, te l'ha detto qualcuno, no? Ma no, ti ho chiesto se hai scritto. Sì, perché l'altra notte non riuscivo a dormire. Avevo un pensiero in testa, ho detto, ma io devo fare una cosa, No, ma aspetta una cosa, qui è un'altra, io voglio capire se hai scritto una canzone. Sì! Mi sembra una storia... Ti sto dicendo che l'altra notte non riuscivo a dormire, mi sono svegliato e ho scritto... Una mezza canzone, così, di getto. Sì, mi ricordo che tu mi avevi detto facciamo. Sì, perché te dicono bene il getto, getto fenomeno! Anche... lo diciamo a bassa voce perché se ci rubano l'idea, si sa che tu sei il fenomeno. Bravo! Tu scrivi di getto canzoni già fatte? No! Canzoni mie! No, già fatte voglio dire che tu le pensi e boom! Le scrivi di getto! Ah, sì! Che sono già pronte, dai, sono perfette! Sì! Ce l'ho già pronta, mezza canzone. Vabbè, mezzo testo. Hai qualcosa, te lo chiedo perché sei il manager, ne avrai anche il diritto, ma ti chiedo per favore. Guarda, se tu potessi farmi sentire qualcosa, no? Sì, ti dico la verità, un po' mi vergogno, sai perché? Perché l'altra volta, l'altra notte, io pensavo a te, Alberto. Non lo so, non vedevo l'ora di incontrarti. Mi fa piacere, io perché stato male. Mi sono messa a piangere. Ma no, avevi fatto un brutto sogno. No, che eravamo all'inferno. Non riuscivo a dormire perché pensavo a te e mi venivi da piangere. Ancora adesso, guarda. Ho capito, ma sono qui, non sono mica defunto, cioè. Non lo so, però mi ho scritto sta canzone. Hai ispirato da questa sofferenza? Sì. Ma quello, è quello, hai capito? La sofferenza, la roba del mio melodico napoletano. Fammi sentire qualcosa. Accenna, in base all'accenno, due frasi, melodia. Però ti devi girare di spalle, Alba, io mi vergogno, ti giuro. Ero di spalle. Vabbè, guardo dall'altra parte. Ecco, di spalle così per principio. E voglio bene, Alberto. Ma questa scuola è vuota senza di te, mi manca l'aria per te. Questa è una parte, mi devi commuovere. No, guarda qui. Questo è un pezzettino. No, ma tu pensa, questa c'è gente che fa successo nei milioni, che con questa frase ci fa una canzone intera. Questa è solo l'introduzione della tua. Se lo vuoi sentire, vuoi venire a casa mia a mangiare? Aspetta, a mangiare sì, però... Qui l'unica cosa è che magari tu il testo a volte lo scrivi di getto, non importa, l'importante è che stiano bene delle parole sulla musica, poi cambi il testo perché, per esempio, tu l'hai fatta, l'ho capito perché se mi hai messo il dosso sul tuo manager, ti voglio bene al beh, tutte queste parole diverso di me, no? Ovviamente lì è un pseudonimo, tipo ci sarà Anna Re, Cateri. Non cominciare a cambiare le cose. No, perché... voglio dire che ovviamente non è che possiamo fare una canzone qui. No, Alberto, allora, tu devi fare manager, tu devi procurare la sala dove dobbiamo andare a registrare e pagare. Poi la canzone, se ti piace quella che ti porto, facciamo quella. Diciamo, sempre cos'è? Più complicato questo, loop. Ragazzi, è finalmente arrivato. Ci sono solo 9 alimenti che potete mangiare questa settimana, questo venerdì. Questo venerdì. Quali alimenti preferite? Comincerei con whisky sour. 1. Con un mojito. 2. Con una pasticca di MDMA. 3. Anche 3 pasticche. 6. Poi ci devi bere sull'acqua, sennò non sale. 7. Bere un sacco d'acqua. 8. E poi andare in discoteca. 9. Perché... Nerdia. Oh yeah. dobbiamo ringraziare, Drago. Qui, ah, è vero, che allora, venerdì. Allora, Laura Faggin. Carmelo Lauricella. Cella. Salvatore Iorio. Alberto Caserini. Guido Bertolotti. Chiara Mignemi. E K e Drago. A lunedì. Sì, no, perché poi c'è lunedì. Cioè, adesso tu fai tutto così, però poi. Intanto il